24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Milano e le borse del vecchio continente hanno chiuso al di sotto dei massimi di giornata raggiunti sulle attese di novità per il governo italiano. Dopo il voto alla Camera sul rendiconto finanziario approvato con 308 voti senza maggioranza assoluta, la borsa di Parigi ha chiuso gli scambi in rialzo dell'1,28%, Londra dell'1,03%, Francoforte dello 0,55%. Lo spread del decennale tra i BTP italiani e i Bund tedeschi si è spinto a un passo dai 500 punti base quota 497, livelli mai visti anche per i rendimenti dei titoli di Stato a 5 e a 2 anni. I primi sono volati al 6,87%, i secondi al 6,38%. A Milano il FTSE MIB ha chiuso in progresso dello 0,74%. A Milano si sono distinte le Intesa San Paolo nel giorno della trimestrale. I titoli sono saliti del 3,5%, sebbene sul finale abbiano dimezzato il rialzo rispetto a metà pomeriggio. Unicredit ha registrato un rialzo del 2% nell'attesa della presentazione del piano industriale che verrà discusso dal Consiglio di amministrazione del 14 novembre e di eventuali novità sull'aumento di capitale. Si sono messi in evidenza i titoli del comparto petrolifero, beneficiando dell'andamento del prezzo del barile ai massimi da 3 mesi. Mediaset, per contro, ha perso il 2,9%, pagando il clima di incertezza politica, oltre che l'attesa per i conti trimestrali annunciati a mercato chiuso. Le TODS più 2,4% e le Luxottica più 2,1% sono state elettrizzate dal fermento nel settore del lusso, nel giorno in cui è stato annunciato che la francese PPR ha raggiunto un accordo per rilevare Brioni. Eleonora Micheli da Radio per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Italia in materia di finanza pubblica per il 2012 e il 2013 saranno necessarie nuove misure aggiuntive, è quanto si legge nel questionario inviato da Bruxelles a Roma. Intanto oggi arriveranno in Italia gli ispettori di Commissione Europea e BCE. Anna Rita D'Ambrosio. Il pressing dell'Europa continua, la situazione politica italiana è sempre in movimento, ha detto il commissario economico dell'Unione Europea, Olli Rehn, come un bersaglio mobile, ha detto Rehn, un fatto che rende imprevedibile gli sviluppi. La situazione in Italia, ha aggiunto, ci preoccupa molto e con la missione vogliamo aiutare l'Italia ad andare avanti con le riforme. Poi Rehn ha detto perché l'Italia ritrovi la fiducia dei mercati e la stabilità finanziaria, è essenziale che il sistema democratico italiano esca da questa situazione. Poi ha parlato degli spread. Siamo molto preoccupati, ha detto Rehn, dagli spread in Italia che oggi hanno raggiunto i 497 punti, ma non voglio commentare, ha aggiunto Rehn, quale sia il livello drammatico. Per questo è essenziale, ha concluso, che ora si facciano quelle riforme che rassicurino i mercati sulla solidità del paese. Grazie ad Anna Rita D'Ambrosio. Verso una soluzione va invece la crisi politica ad Atene. Il premier uscente Papandreou e Antonis Samaras, leader di Nea Democrazia, hanno raggiunto un accordo. Sarà Lucas Papademos primo ministro del governo di coalizione. Il nuovo governo di unità nazionale deve affrontare un'evasione fiscale al 30% e un rapporto tra debito pubblico e PIL arrivato al 160%. E trasporti fermi in Portogallo, in segno di protesta contro il piano di austerità. Alla protesta partecipa, secondo i sindacati, quasi il 100% dei lavoratori che contestano le misure introdotte dal governo del centrodestra eletto giugno in cambio dell'aiuto finanziario di Unione Europea e Fondo Monetario, in particolare la soppressione della 13ª e della 14ª dei dipendenti dei pensionati che guadagnano più di 1000 euro. Contro il piano dell'esecutivo è previsto uno sciopero generale il 24 novembre. Voltiamo pagina, entra in funzione il gasdotto che attraversa il Baltico. A Lubmin in Germania è stato inaugurato Nord Stream, che porterà il gas russo in territorio tedesco, passando anche per la Finlandia, la Svezia e la Danimarca. 26 milioni di famiglie europee saranno presto attaccate al rubinetto russo del gas. Con l'apertura formale di Nord Stream si apre un nuovo capitolo delle relazioni energetiche spesso tormentate tra l'Unione e la Russia. L'autostrada del gas che arriva dagli Uralis in Abissa nel Baltico non lontano da Pietroburgo e consegna il gas russo direttamente in Germania aggira il terreno minato ucraino. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Dmitry Medvedev i premier francese e olandese François Fillon e Mark Rutte, oltre al commissario UE per l'energia Günther Oettinger, hanno aperto simbolicamente i rubinetti del primo tubo di un serpente di metallo lungo oltre 1200 chilometri. Medvedev ha parlato di una nuova pagina della partnership energetica tra Russia e Germania. Fillon ha detto che Nord Stream è la prova che il nostro continente sa guardare all'avvenire. Il gasdotto, che entro la fine del prossimo anno verrà raddoppiato, trasporterà a completamento 55 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Dietro all'infrastruttura, costata 7,4 miliardi di euro, c'è un consorzio guidato dal colosso pubblico del gas russo Gazprom, con le tedesche BAS, Fedeon, l'olandese Gasunie e la francese GDF Suez. Il gas russo arriva al momento giusto per la Germania, che conta su di esso per produrre elettricità, quella che verrà a mancare dopo la chiusura delle centrali nucleari prevista entro il 2022. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. L'Italia perde un altro marchio acquisito da una società francese. Sentiamo di cosa si tratta. Brioni passa sotto la bandiera francese. L'azienda abruzzese leader nell'abbigliamento maschile sartoriale su misura ha ceduto il 100% del capitale alla francese PPR, che controlla già super brand come Gucci e Bottega Veneta. Il gruppo parigino garantirà lo sviluppo della rete distributiva nei mercati emergenti, soprattutto asiatici, dove l'abbigliamento maschile viaggia con crescite record. Nel mercato mondiale del lusso, dove dominano colossi come LVMH, Prada e appunto PPR, la competizione si gioca a suon di centinaia di milioni in investimenti nel retail ogni anno e c'è dunque poco spazio per un'impresa di medie dimensioni come la Brioni. Peccato solo che il Made in Italy perda l'ennesimo tassello, mentre i francesi fanno man bassa delle nostre eccellenze senza che nessuno batta ciglio. Paola Bottelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea ha concesso sovvenzioni per sostenere iniziative volte ad affrontare il problema della violenza e dell'intolleranza nello sport e migliorare il modo in cui lo sport viene gestito in Europa. 12 progetti transnazionali hanno ricevuto sovvenzioni che vanno dai 125.000 ai 200.000 euro. I finanziamenti rientrano nell'ambito di un pacchetto di azioni preparatorie per un programma europeo destinato allo sport che intende anche sostenere campagne per promuovere l'attività fisica, l'inclusione sociale e la lotta contro il doping. Andiamo in Svezia, dove diminuisce il numero delle piscine miste per questioni religiose. Complice la religione islamica, a Stoccolma il municipio vuole estendere le ore di nuoto riservate alle donne, vietando così l'ingresso agli uomini in alcune piscine pubbliche. Fino ad oggi, nei sobborghi più popolati da immigrati extracomunitari, i maschi non potevano accedere per un solo pomeriggio alla settimana. Ora però si sta pensando di raddoppiare il divieto per due pomeriggi alla settimana, così da consentire alle tante donne islamiche di nuotare liberamente. Un progetto che però sta suscitando non poche polemiche in Svezia. Da più parti si insiste, perché allora non riservare anche un pomeriggio ai soli maschietti? E poi, come conciliare il nuovo progetto con il fatto che molti istruttori di nuoto sono maschi? Il dibattito è aperto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura andiamo in Olanda. Ad Amsterdam sta per aprirsi il 24esimo festival dedicato ai documentari. Ci sarà anche un film italiano dal titolo Antonio più Silvana uguale 2. I registi sono Luca Onorati, Simone Leandri e Vanni Gandolfo e l'idea del documentario è nata proprio sotto casa di quest'ultimo. Sentiamo Vanni Gandolfo. Due anni fa, un po' alla volta, giorno dopo giorno, ho visto comparire davanti alle mie finestre delle stranissime scritte che raccontavano una storia d'amore tra un certo Antonio e una certa Silvana. Antonio del 34 e Silvana del 50. Stavano insieme, poi si sono lasciati, anzi lui ha lasciato lei, lui poi dopo varie vicissitudini si è trovato a vivere in una casa di riposo che c'è alla fine di questo vicolo, lui non ne voleva sapere, per cui si è blindato dentro la casa di riposo da cui non è uscito per tanti mesi e lei tutte le mattine dalle 6 del mattino lo aspettava alla fine del vicoletto. L'unico modo per comunicargli il suo amore era scrivere sui muri. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.